Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. L'uomo di cui vi racconto oggi la storia è morto 140 anni fa, e 140 anni dopo gli storici non si sono ancora messi d'accordo su di lui. Ci sono proprio due versioni sulla sua vita, due interpretazioni. Da un lato si parla di lui come eroe dell'epopea americana del West, e invece molti lo giudicano un condottiero incapace e avventato. Era un militare di talento oppure era un uomo crudele, meschino, spinto solo dall'ambizione? Insomma, era un eroe o un cialtrone? Di sicuro c'è che è morto nella più famosa delle battaglie dei tempi moderni. Se io vi dico Settimo Cavalleggeri, tutti pensate come minimo ai soldatini che avevamo da bambini. E tra le colline desolate del Montana c'è il luogo di una battaglia di cui tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta: Little Big Horn. Questa marcia militare era la musica che sentivano gli indiani quando sul loro villaggio stava per piombare il Settimo Cavalleggeri, comandato da lui, dal nostro protagonista di oggi, George Armstrong Custer, il generale Custer. E non era un buon segno per gli indiani, perché quando questa marcetta quasi allegra, ci sono state anche canzoni ironiche e stupidotte su questa musica, era meglio morire da piccoli. E insomma, quando questa marcia arrivava, la sentivano i Sioux o i Cheyenne, significava paura, violenza, morte portata dai lunghi coltelli, come chiamavano le giubbe blu dell'esercito americano. I lunghi coltelli erano i fucili con le baionette, quei soldati erano comandati da colui che per quelle tribù era lunghi capelli, il generale Custer. Vieni, nonno, nasconditi qui dentro. A che serve, figlio mio? È un buon giorno per morire. Dobbiamo andare al di là del fiume! Sono cieco, non posso combattere. Ma non fuggirò. Se questo è il mio giorno, voglio morire nel cerchio del campo. Questo era uno spezzone di Piccolo Grande Uomo con Dustin Hoffman, il film che racconta la parte finale delle cosiddette guerre indiane, ne abbiamo già parlato, in particolare la strage sul fiume Washita di cui il generale Custer fu artefice e protagonista. È solo una delle tante pagine controverse di questa storia, difficile da raccontare senza cadere nelle tante bugie e leggende sorte nel tempo attorno alla figura di Custer. Leggende utili alla retorica nazionale per fare di Custer un americanissimo simbolo della supremazia bianca nei confronti degli indiani. George Custer nasce a New Ramley, nello stato dell'Ohio, il 5 dicembre del 1839, in una famiglia di lontane origini tedesche. Infatti i suoi antenati erano sbarcati in America con il cognome Custer, con la K, poi anglofonizzato in Custer con la C. Il padre è un maniscalco, lui nasce, George, da un secondo matrimonio del padre. Una famiglia numerosissima, 11 figli in tutto, sommato quelli nati nei precedenti matrimoni dei genitori. Due fratelli più piccoli, Thomas e Boston, che moriranno con lui nella battaglia del Little Big Horn, insieme al marito di una sorella. Voi direte, famiglia di eroi, soprattutto famiglia di un nepotista, perché il generale Custer aveva piazzato i parenti nel Settimo Cavalleggeri che comandava, e questo insomma non ha portato bene a nessuno della famiglia. E lui ha 18 anni quando entra nell'Accademia Militare di West Point, la mitica West Point. Ci vuole una raccomandazione da parte del deputato John Bingham. Lui in realtà non aveva fatto niente per meritarsi quel posto, e la sua carriera in Accademia è una rassegna di punizioni, note di demerito, scarso negli studi, ha un carattere inadatto alla vita militare, è testardo, permaloso e orgoglioso al limite della stupidità. Insomma, rischia l'espulsione per demerito. Lui eccelle solo nelle attività pratiche: tiro con la pistola, scherma e equitazione. La sua resistenza sulla sella gli garantirà molti anni dopo uno dei tanti soprannomi affibbiatigli dagli indiani, culo duro. Negli anni dell'Accademia, durante una licenza, Custer conosce la sua futura moglie, Elizabeth Cliff Bacon, detta Libby, che descriveva così l'aspetto del futuro generale. Era alto 1,78 e pesava circa 75 kg. I suoi occhi erano azzurri e con lo sguardo profondo. I suoi capelli corti, ondulati e del colore dell'oro. I suoi baffi erano lunghi, folti e ambrati. Il colore della sua carnagione era vivo. E l'immagine che le foto di Custer ci rimandano, a parte i capelli che erano corti in Accademia, ma che poi lui porterà lunghi negli anni a venire. Siamo nel 1861, mentre l'Italia si unisce, negli Stati Uniti scoppia la guerra di secessione. Lui avrebbe dovuto diplomarsi nel 62, ma serve personale, diciamo così, serve gente, e così viene chiamato un anno prima. Si è diplomato lui, 34esimo su 34 cadetti, un successone insomma, per cui uno come lui, destinato a un futuro da perdente, invece sta aspettando un destino che ha in serbo per lui una carriera, diciamo così, di tutto rispetto. Il falco e il gabbiano. E stiamo cominciando a dipanare questo groviglio di mito, leggende, realtà che circonda il nostro generale Custer. Eh sì, perché molti dei racconti sulla sua vita sono palesemente condizionati dalla retorica dell'eroe americano, una retorica che ha fatto sì che Custer fosse forse addirittura più utile da morto che da vivo. E intanto il colpo d'ala, se così si può dire, è un colpo di fortuna, perché la sua carriera all'Accademia Militare di West Point, ultimo della classe nel 1861, non gli avrebbe certo garantito un futuro luminoso, però la guerra crea la necessità di truppe, di ufficiali freschi da imbarcare nell'avventura antisecessionista velocemente, senza guardare troppo il cappello. È la prima assegnazione al secondo cavalleria con il grado di sottotenente. Il battesimo del campo 21 luglio del 61 è uno scontro importante, quello di Bull Run, e a dispetto della sua mediocrità scolastica, Custer inizia a distinguersi soprattutto per la ferocia, l'aggressività delle sue azioni in battaglia. Sembra incurante delle perdite, sì, perché sono battaglie cruente, i suoi soldati cadono feriti, morti, e lui non si fa impressionare, continua imperterrito ad attaccare. Signor colonnello, signore, metà dei miei sono morti, l'altra metà feriti. Il fianco sinistro non come c'è. Come stiamo a munizioni? Quasi esaurite. Signore, siamo a corto. Abbiamo finito le munizioni. Sinistra, pronti a partire. Conversione a destra! Suona la carica. Così Custer, camminando sui cadaveri, inizia a fare carriera, viene assegnato allo stato maggiore dell'armata del Potomac, l'unità più grande dell'esercito nordista. È sotto il comando del generale McClellan. È il 1862, l'anno in cui, durante una licenza, si fidanza con Elizabeth Bacon, la sua futura moglie. E nel 1863, mentre la guerra di secessione americana miete vittime ed è ben lontana dal terminare, lui viene trasferito e promosso da tenente, serve alle dipendenze del generale Pleasonton in una delle divisioni di cavalleria dell'armata. È un periodo di colpi d'ala per il nostro protagonista, perché lui continua a distinguersi in battaglia, partecipa con successo a un'azione molto rischiosa contro un reparto di cavalleria sudista, è premiato a soli 23 anni con il suo primo comando, una brigata di cavalleria. Gli viene anche assegnato il grado temporaneo di generale. Si tratta di quello che nell'esercito americano è definito brevetto, un grado a tempo determinato per la sola durata di una guerra. Ormai è lanciato verso il successo, così chiede a Elizabeth di sposarlo. Lei naturalmente accetta. A ben guardare, le sue fortune sono frutto di un conflitto in cui le capacità degli ufficiali sono piuttosto scarse, perché il talento tattico di Custer non è molto spiccato, almeno stando ai resoconti. Si limita alla dottrina base, quella che prevede il cosiddetto attacco frontale imparato sui banchi a West Point. Consiste che bisogna lanciare le proprie truppe violentemente contro le linee nemiche. Punto. Tra i tanti detrattori di Custer, un suo collega ufficiale che dichiarò che il generale, così attento al proprio aspetto, era salito ai vertici della carriera militare camminando sulla schiena dei suoi soldati caduti in battaglia. E George Custer non è noto solo per questa incuranza delle perdite umane, è famoso anche per la durezza con cui tratta i sottoposti. Durezza va al limite della crudeltà. I documenti dell'epoca parlano di punizioni severe, detenzioni, marce con zaini carichi di pietre, soldati legati a terra, mani e piedi sotto il sole, fino alla fucilazione. Ecco come la pensava questo galantuomo. È sempre una questione difficile, i primi giorni di una marcia, far capire ad alcuni parassiti degli accampamenti, come gli addetti ai carri, per esempio, l'assoluta necessità di un'immediata e stretta obbedienza agli ordini, in particolare gli ordini che regolano il tempo e il modo di marcia. E uno o due giorni di solito sono impiegati a disciplinare questi personaggi senza regole. E vince anche delle battaglie magari condotte in inferiorità numerica. E certo, però il costo in vite umane è sempre altissimo. A Gettysburg, per esempio, la brigata che comanda conta 500 morti su 1700 unità, 1 su 3. E nella battaglia di Wilderness perde un altro terzo dei soldati. Nell'ultimo scontro, la battaglia di Appomattox, solo la sua brigata conta alla fine perdite ingentissime. Ma gli altri generali nordisti in quel conflitto passano comunque alla storia più per incapacità che per altro. Quindi, vinta la guerra, i giornali hanno bisogno di un eroe, di qualcuno che possa diventare il simbolo della forza e dell'audacia dei vincitori. E così tocca a lui, è nel posto giusto al momento giusto. E poi lui ha relazioni forti con i giornalisti. Tocca a lui incarnare quella figura. La stampa lo definisce il Murat americano. Con questa fama, Custer inizierà la seconda parte del suo volo, quello delle nefandezze, quello della sopraffazione degli inermi, le cosiddette guerre indiane. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di George Armstrong Custer, il generale Custer, un cadetto dell'accademia, studente mediocre, ufficiale mediocre che a seguito di una serie di circostanze fortuite veramente clamorose a un certo punto diventa un eroe per i media americani, anche perché era diventato un eroe, come hanno scritto alcuni, camminando sui cadaveri dei suoi soldati, perché era uno che quando si trattava di attaccare non pensava certo a risparmiare delle vite. Ma la memoria del generale Custer è legata soprattutto alla battaglia di Little Big Horn, una delle più cocenti sconfitte militari nella storia dell'esercito americano. Gli storici non sono d'accordo se Custer sia stato un grande condottiero, un eroe americano, oppure semplicemente un arrivista avventato e pieno di sé. Insomma, tutto lascia propendere per la seconda ipotesi, ma naturalmente noi non diamo giudizi netti. Lo abbiamo lasciato sul finire della guerra di secessione, dove ha fatto carriera. 9 aprile del 1865, dopo 4 anni di guerra, dopo la morte di 600.000 soldati e di alcune decine di migliaia di civili, l'esercito secessionista si arrende. E a un anno dalla fine del conflitto, il presidente americano Johnson modifica profondamente l'esercito, assegnandogli dei compiti di polizia interna, soprattutto nei territori dell'Ovest, la nuova frontiera. Insomma, riporta tutti i militari al grado anteguerra, cioè annulla i cosiddetti brevetti. E per uno ambizioso come Custer, quello che ha terminato la guerra come Major General e che si ritrova di nuovo capitano, è uno smacco terribile. Addirittura vorrebbe andare in Messico, dove l'imperatore Massimiliano d'Austria sta arruolando militari d'esperienza per combattere la ribellione interna di Benito Juarez, ma il generale Sheridan, già suo comandante di divisione, gli assegna il comando del 7° Cavalleggeri con il grado di tenente colonnello. Il 7° Cavalleggeri è un nuovo reggimento in via di formazione, di cui si parlerà e non poco. Mi sentite? Sono le trombe. Stanno ordinando la carica. E, E forse qualcuno di voi da bambino, almeno una volta, giocando ai cowboy, agli indiani, ha urlato Settimo Cavalleggeri, perché era un gruppo destinato, comunque avvolto da un'aura leggendaria. In realtà erano 800 uomini, italiani, polacchi, messicani, tedeschi, irlandesi, pagati poco e male addestrati, con difficoltà di comunicazione per le diverse lingue parlate. Sembravano una squadra di calcio italiana di oggi. L'indisciplina veniva punita senza sconti e Caster si era distinto per zelo da questo punto di vista. La sua attitudine alla crudeltà gli aveva già portato guai, come nel 1867, quando il generale Hancock si muove contro i Cheyenne, che erano in pace, insomma una spedizione inutile che sortisce l'unico risultato di convincere i nativi a entrare in guerra con i Washichu e bianchi. E in quella campagna le truppe sono costrette a sforzi immani, a marce, a tappe forzate, molti disertano, e contro i disertori Custer applica la pena di morte, che non era neanche prevista dalle leggi militari. Finisce sotto corte marziale per crudeltà verso i propri soldati e per la mancata difesa di truppe sotto l'attacco indiano e l'abbandono del posto di comando per andare a trovare la moglie. Insomma, era coraggioso con la vita degli altri, ma non certo con la sua, e si salva solo grazie alle sue amicizie politiche. Pensate un po'. E quando Custer rientra dalla sospensione che gli era stata inflitta, la questione indiana è al culmine. Siamo alla fine del 1868. Il generale Sheridan ha avviato la campagna invernale contro gli Cheyenne del sud. I nativi americani hanno iniziato già a vivere gli episodi più dolorosi della loro storia, hanno già conosciuto la crudeltà dei soldati con le giubbe blu. 4 anni prima c'era stato il massacro sul fiume Sun Creek, dove il colonnello Shivington aveva massacrato 163 Cheyenne, donne e bambini indifesi, mentre i guerrieri erano lontani a cacciare. Tra i pochi scampati c'era un capo, Black Kittle, il pentola nera, che aveva sventolato inutilmente la bandiera americana ai soldati. 4 anni più tardi lo stesso capo, in un altro accampamento, perché lui e la sua gente non vogliono andare a nord verso la zona che il governo americano ha assegnato come riserva Cheyenne. E all'alba del 27 novembre del 68 dal campo si sente all'improvviso il galoppo dei cavalli del temibile Settimo Cavalleggeri, comandato da Custer. Capitano, uccidete tutti i cavalli indiani. Come, signore? Ho deciso così. Abbatterò i loro cavalli. Ma signore, obbedite! Sì, signore. Giovanotto, la vostra aria di commiserazione comincia ad annoiarmi. Ma io non ho detto nulla, signore. Il fatto di uccidere 4 cavalli mi scandalizza. Vi dirò allora che le donne sono infinitamente più importanti dei cavalli perché figliano e si riproducono come coniglie. Tuttavia, tenente, questa è un'azione legale. E i miei soldati hanno l'ordine preciso di risparmiare le donne. A meno, naturalmente, che rifiutino di arrendersi. Così il fiume Washita si tinge di rosso. Quell'attacco improvviso all'alba frutta a Custer un nuovo soprannome da parte dei nativi: figlio della stella del mattino, e non figlio di qualcos'altro. Questa volta Pentola Nera muore assieme alla moglie e molte vittime restano nella neve insanguinata. Custer, che in seguito dirà di aver ucciso più di 130 indiani, cattura i sopravvissuti, usa le donne e i bambini come scudi umani per tornare verso il suo accampamento. Sentiamo lo storico Michael Donahue. Gli venne l'idea di prendere degli ostaggi perché non riusciva a trattare con gli indiani. Non potendo circondarli e costringerli a tornare nelle riserve, Custer pensò di sfruttare gli ostaggi. Così un piccolo gruppo di persone valeva come 100 guerrieri se sfruttato nella maniera giusta. Custer continuò a usare la tattica degli ostaggi anche dopo il Washita. E anche in quell'occasione Custer ha modo di mostrare il lato spregevole del suo carattere, perché c'è un suo ufficiale, si chiama Joe Elliott, si stacca dalla colonna delle truppe con un gruppo di soldati, attacca altri campi a qualche chilometro, Custer non cerca di fermarlo e non corre neanche a difenderlo quando i guerrieri Kiowa, Arapaho e Comanche accerchiano gli uomini di Elliot e li massacrano, perché mentre succede questo Custer è al sicuro a festeggiare la vittoria sul fiume Washita. Insomma, i suoi ufficiali trovano altre ragioni per disprezzarlo, a partire dal maggiore Reno e dal capitano Benteen, che addirittura dopo i fatti del Washita lo aveva sfidato a duello. La campagna cruenta, crudelissima contro i Cheyenne porta in quel 1868, vi ricordate, ne avevamo già parlato nella puntata su Cavallo Pazzo, porta ad accordi di pace tra gli indiani e il governo americano, accordi naturalmente capestro per gli indiani, che hanno limitato il loro territorio ulteriormente per far spazio alla costruzione di ferrovie e all'insediamento di nuovi coloni. Alcuni territori vengono assegnati alle tribù con formule altisonanti e definitive dagli americani, tra questi le colline nere, la Pahasapa, 43 acri di terre collinose tra il Sud Dakota e il Wyoming. E insomma, le hanno fregati un'altra volta, perché per gli americani non valgono nulla, però per gli indiani sono territori sacri dal profondo contenuto spirituale. E il trattato dura pochi anni, poi viene scoperto un filone d'oro proprio nel mezzo delle colline nere. E allora, e gli americani non ci pensano due volte, qualche cavillo legale, un po' di bugie sui cattivi indiani, accusati di rifiutare i benefici della civiltà, e il trattato viene mandato all'aria, si rimangiano tutte. Proprio Custer conferma la presenza dell'oro, apre la strada a migliaia di minatori che invadono le colline nere. Una nuova campagna militare contro gli indiani è pronta, però è improvvisata, non c'è un'impostazione tattica. Gli ufficiali, tra cui Custer, non hanno neanche idea delle forze in campo, immaginano di inseguire sparuti gruppi di Sioux e Cheyenne, non sanno che proprio Toro Seduto a febbraio ha convocato le tante tribù Sioux per comporre un grande villaggio e vivere le antiche tradizioni della caccia al bisonte, ai balli e ai canti sacri. Insomma, ai Sioux si uniscono i Cheyenne, invitati da Cavallo Pazzo e altre tribù, per un totale di oltre 10.000 persone, di cui 2 o 3.000 guerrieri. E questi sono coraggiosi veramente, sono tutti accampati lungo le rive di un torrente, il Little Big Horn. Il mattino del 25 giugno del 1876 le guide indiane indicano a Custer la presenza del villaggio di Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Lui vuole un successo militare, cerca la grande impresa e si vocifera che abbia intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, insomma ha fretta di vincere quella battaglia. Le guide indiane riferiscono che il settimo non ha pallotto la sufficienza per tutti quei guerrieri, ma Custer ha fretta, decide di non aspettare i rinforzi in arrivo, commette un errore imperdonabile, divide le sue forze, manda una parte degli uomini con il capitano Benteen a esplorare alcune colline dall'altra parte della vallata e ordina al maggiore Reno di lanciarsi all'attacco del villaggio. Maggiore Reno! Gli indiani si stanno muovendo. Prenda 3 compagnie, avanzi con prudenza e li attacchi. Resterete di supporto. Maggiore Reno, guiderà lei la carica. Dov'è il colonnello Benteen? Maggiore, questi sono gli ordini. Guidi la carica, ho detto. Pochi minuti e anche Custer scende verso valle. Sentiamo lo storico Michael Donahue. He does see the non-combatants. Vide i non combattenti fuggire nella valle. Nella sua testimonianza, Cavallo Pazzo afferma di aver visto Custer puntare contro le donne e i bambini sull'altra riva del fiume. E tutti i movimenti del generale sembrano confermarlo. Custer avrebbe potuto vincere la battaglia del Little Big Horn se avesse catturato le donne e i bambini. Ma Custer e i suoi non riescono a guadare il fiume per colpa del fango sulle sponde. Lo fanno invece i guerrieri indiani, che sanno bene dove attraversare. Si lanciano al galoppo sui soldati. E allora gli uomini di Custer scendono da cavallo per difendersi meglio, arretrano sul fianco di una collina. Nel frattempo alcune donne indiane fanno scappare i cavalli dei soldati che trasportano le munizioni di scorta, agitano coperte colorate e di colpo Custer e i suoi sono in svantaggio, senza potenza di fuoco e a piedi. Arrivano in cima alla collina, quella che oggi si chiama Last Stand Hill, la collina dell'ultima resistenza. Un fiume di guerrieri, tra i quali lo stesso cavallo pazzo, annienta gli oltre 250 soldati arroccati a difesa. I buoni vincono, nessun sopravvissuto. Un colpo alla testa e uno al cuore, probabilmente entrambi vuoti, raggiungono il tenente colonnello George Armstrong Custer, mettendo fine alla sua vita e consegnandolo al mito e alla retorica nazionale. Sentite ancora Michael Donahue. I like to compare it sometimes to the death of John F. Kennedy. Si può fare un paragone con la morte del presidente Kennedy. Quando le persone sentivano la notizia, stentavano a crederci. Come aveva potuto George Custer, con i suoi uomini ben armati, farsi sconfiggere da quei selvaggi delle pianure? La gente reagiva con incredulità e sgomento alla notizia. Il Congresso aumentò subito i finanziamenti. Vennero inviati sul campo altri uomini, che divennero noti come i Vendicatori di Custer, per ricacciare gli indiani nelle riserve, una volta per tutte. La più grande vittoria per i nativi americani si rivela essere l'ultima. Nonostante i tanti caduti sul campo che non sono mai stati ricordati dai libri di storia, perché la storia ricorda solo quelli che le guerre le vincono. Ma è anche l'inizio della fine per il popolo pelle rossa. Come andò a finire per gli indiani lo sappiamo già, perché dopo quella battaglia vittoriosa arrivarono le stragi e le ritorsioni. Una storia terribile, quella del generale Custer, è una storia alimentata dalla retorica di quel tipo di patriottismo, ma in realtà una storia colma di macchie incancellabili. Nel bene e nel male a noi piace raccontare la storia di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite, anche magari risalendo camminando sui cadaveri, come il nostro protagonista di oggi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it o visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure venite a trovarmi nei miei Facebook, Twitter e in quelli del Falco il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove sono. Aug, a domani. They stole an hour, earth and sun.